alcune considerazioni, secondo me, però vanno fatte. Il tecnico tedesco, infatti, parlando di un ruolo con pieni poteri gestionali, sia dell'area sportiva che di quella tecnica, invade delle zone nelle quali lavorano dei professionisti con regolare contratto. Queste le parole di Paolo Maldini. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Professionisti da quando abbiamo 16 anni e quindi abbiamo preso in mano la nostra vita veramente giovani, e questo è solamente un nuovo momento della nostra vita, non la viviamo, almeno io personalmente, ma mi confronto sempre con Zoni, la viviamo in maniera sicuramente serena. Tu personalmente invece come ti senti? Male. Male, soffro tanto, la vivo male, in ogni istante della mia vita ti perseguita quello che succede con la squadra, come giusto che sia. Se una persona crede di essere una persona responsabile, come lo sono gli altri con cui lavoro, quindi certamente non le puoi vivere bene. Noi di Pioli siamo veramente contenti, perché è subentrato in una situazione non facile. Da adesso a fine stagione possono succedere tante cose. Tutti noi giocatori, ma soprattutto allenatori e dirigenti, viviamo di risultati. Ci auguriamo di fare una seconda parte della stagione super e sederci poi a maggio al tavolino con lui per programmare la prossima stagione. Se ti dico Ragnik? Sinceramente, come direttore dell'area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che sia il profilo giusto per associarlo a una squadra come quella, come mia. Buon pomeriggio a tutti, Edoardo Lavezzari, Alessandro Marco Tulli in redazione, Filippo Reggi in regia. Milan, due punti, come complicarsi anche di più una vita già difficile. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, ciao. Ciao. Avvocato Ielpo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Facciamo tutti quanti gli auguri a Franco Ordine. Ciao Franco. Saluti, saluti. Non perché è il suo compleanno. Ciao Franco. Ciao, Franco. Non perché è il suo compleanno, credo. Spiegaglielo, perché è il compleanno, il centesimo compleanno del Foggia. Ah, del Foggia, certo. Quindi ho visto un post su Instagram, può essere, Franco? Sì, l'ho visto ieri sera, Franco. Ieri sera abbiamo fatto una... un tiki-taka carbonaro con un po' di amici che siamo visti su Zoom, abbiamo fatto due chiacchiere in amicizia. Ah, non perché c'era la carbonara? Perché... No, non c'era carbonara. Quel post che hai visto su Instagram è la pagina del Corriere dello Sport di questa mattina. Certo. Senti, parto da Mario Ielpo. Il Milan vince lo scudetto del club più incasinato d'Italia, mi pare, Mario. Ma insomma, questo è lo scudetto difficile da vincere, insomma, se mi metto lì a pensarci ci sono anche insomma, altri concorrenti per i premi, però sicuramente insomma, non ha pace. Ogni anno in questo momento nascono questi discorsi, che già questo ti dice tutto sulle problematiche del Milan, cioè quando l'obiettivo non è ancora né perso né raggiunto e l'allenatore viene messo sulla graticola. Sì, ma qui è l'intero sistema. E sì, a parte il resto. È perché oggi ho letto con attenzione anche quanto ha scritto Franco sul Corriere dello Sport. Mi sembra che siamo della serie mettere a disagio chi sta provando a lavorare. Maldini stesso, dignitosissimo Pioli, lo stesso Ibrahimovic che ci metterà un attimo a mandarli tutti a stendere comunque, io credo, Franco. Sì, no, ma io devo dirti francamente, qui per la prima volta il problema non è all'interno della società, tra i componenti della società. Il problema, cioè, io dico, tu Gazzidis sei libero di sceglierti chi vuoi. Sei andato a prendere Ragni, benissimo. Ok, poi dopo vedremo sul campo, misureremo, valuteremo. Io non mi sogno assolutamente di dare un giudizio senza averlo visto lavorare direttamente, non lo conoscevo, non lo conosco e quindi mi astengo dal giudizio. Però tu non puoi ogni settimana bombardare il Milan attuale con le tue interviste e soprattutto con le tue richieste che mi sembrano francamente stravaganti oltre che pittoresche. Io ho bisogno di fare tutto, non vorrei che questa missione poi diventasse suicida, ma la prima cosa che un amministratore delegato deve chiedere a chi va a contattare è quello, il patto di estrema riservatezza, perché altrimenti salta per aria tutto. E quindi devo dire che da questo punto di vista stamattina ho fatto l'elogio di Baldini, perché da una parte difende il lavoro di Stefano Pioli, che devo dire io lo proporrò subito dopo Padre Pio, lo proporrò come santo e martire di questo calcio che lo maltratta dalla mattina alla sera senza che abbia fatto nulla di sconveniente. Secondo, Maldini dice devi portare rispetto a chi, riferito al tedesco, a chi mettendo da parte il proprio orgoglio resta sul campo per il bene del Milan, perché fosse stato per l'orgoglio Maldini avrebbe già salutato da tempo. Ma è sacrosanto, ma ha ragione Franco Pierluigi quando dice ha fatto l'intervento difensivo più appropriato della sua carriera ancora giovane dirigenziale, no? E ne ha fatti tanti invece in carriera di interventi difensivi decisivi. No, io credo che il tema sia appunto il fatto dello stile, della riservatezza, del remare tutti dalla stessa parte, nel mostrare il segno di una società unita, anche qualche volta a dispetto della realtà. Ecco, tutto questo sta completamente mancando e questo è quella cosa astratta ma in realtà poi concretissima che fa i successi delle squadre di calcio, che è la società, che è la capacità di allinearsi prima e non trovarsi di fronte a situazioni imbarazzanti sui giornali, trovare una sintesi, che ci sia una polifonia, questo è abbastanza normale, anch'io onestamente giudizio tecnico, insomma Ragni lo conosciamo, però ovviamente manca la controprova, io non posso dire che sia una scelta sbagliata. No, ma è il nessuno, modo. Nessuno può saperlo e anzi potrebbe anche rivelarsi una scelta azzeccata, però è chiaro che le premesse, il modo verso il quale si sta andando, la maniera in cui si sta andando verso questa scelta è veramente sconvolgente. Sì, non è tanto per la sostanza, Pierluigi, che poi sostanza, è per la forma che qualche volta sostanza lo diventa. Appunto. Mario, ma posso dire, aggiungo l'ultima cosa. Sì, certo. Lo dico perché con i premi, i pregi, i difetti, le simpatie, le antipatie, il Milan che io ho conosciuto per tanti anni, insomma, invece metteva la comunicazione al primo posto. Cioè era proprio il regno della perfezione comunicativa, qualche volta anche con degli inerzi, con delle umertà e con qualche bugia, sicuramente. Però era una società che appariva sempre compatta, granitica. Bravo. E che dava un'immagine all'esterno molto precisa. Un credo po' incidono i risultati. Credo che compattezza sia la parola giusta. Ma chiaro. Mario, tu sappiamo sei molto amico di Paolo Maldini, quindi insomma hai un interesse di amicizia, però sarai d'accordo con noi che Maldini non può e non, probabilmente non deve rimanere in queste condizioni. Ma sai, questo da una parte che tutti noi ci auguriamo che Paolo rimanga, perché Paolo è il Milan, quindi io quello di cui veramente io sono preoccupato, cioè a prescindere dalla polemica spicciola del momento, dei problemi anche di classifica, è del fatto che il Milan si snaturi completamente, non è più il Milan, ma non è più neanche una squadra italiana. Cioè ragazzi, un po' bisogna anche vederla questa cosa, bisogna anche dirla. Sì. Cioè non si può avere una proprietà straniera, dirigenti stranieri, giocatori al 90% stranieri, se vendono un paio di cui stanno parlando, cioè alla fine tutta la filiera è straniera, però si fa il campionato italiano. Ora per straniero precisiamo, perché se uno dice che straniero vuol dire uno che non è a conoscenza, non è ancora ambientato nel calcio italiano, cioè non è che il passaporto stiamo parlando, no? No, ma però Cioè, questo uno, quindi Paolo vorrebbe, lo vorrebbe perché invece è l'ultimo dei baluardi sia dell'italianità, della mentalità italiana, che della mentalità del Milan. Però insomma, le cose stanno precipitando da questo punto di vista. Ma mi sembra che quello della spersonalizzazione, dell'europeizzazione, di quello che vuoi tu, è correttissimo quello che dici. Mi sembra che sia però un po' il piano di Gazzidis, sia stato che sia quello proprio di togliere il Milan da questa realtà e crearne una realtà che sarà anche più contemporanea, però totalmente straniera. Ora va bene tutto, si discute qualunque cosa, si discute Maldini, Boban è andato via, si discute Pioli fin dal minuto zero, ma nessuno discute l'operato di Gazzidis, che fino adesso non mi sembra che abbia portato tantissimo a questo club, che pure lo paga un pacco di soldi, Ciccio. No, guarda, allora, da questo punto di vista, finora Gazzidis è sempre rimasto, diciamo, nelle retrovie. Il primo anno dietro Leonardo e Maldini, il secondo anno adesso, quando è arrivato c'era già Gattuso e quindi no. Il primo anno dietro Leonardo e Maldini, il secondo anno dietro Boban e Maldini. Allora, cosa è successo prima del Natale del 2019? Allora, dopo il famoso 5-0 di Bergamo con l'Atalanta, la proprietà ha chiamato Gazzidis e ha detto: allora, qui perdiamo 100 milioni all'anno, becchiamo 5 pappine a Bergamo contro l'Atalanta, così non va bene. Allora, a quel punto Gazzidis ha, come dire, tra virgolette, rotto gli induzzi e deciso di fare per conto suo. Quindi, da una parte, finalmente, e meno male, hanno dato retta a Boban facendo arrivare Ibrahimovic. E dall'altra lui si è messo in contatto con questo tedesco e lo ha contattato e lo ha prenotato. Va bene, adesso da oggi in poi sarà solo e soltanto responsabilità di Gazzidis, se potremo anche dirgli: guarda, allora sui conti non hai fatto molto, sugli sponsor hai fatto meno di zero, adesso vediamo dal punto di vista della guida tecnica di che cosa sei capace. Io non sono in assoluto contrario, come dice Pierluigi, all'idea di questo Rangnick. Intervistando Baresi per i suoi 60 anni, gli ho sentito dire una frase che condivido molto: non bisogna avere paura delle novità, e io sono tra quelli che non ha paura assolutamente delle novità. Dico soltanto che però c'è modo e modo di far arrivare le novità dentro una squadra come il Milan, ma che infatti, in questo momento è alla ripresa della città. Io sposo totalmente quanto ha detto Pierluigi, che l'ha messa sulla comunicazione, sulla compattezza, sull'idea che dai comunque di quello che sta succedendo. Cioè, in questo momento. Ma ti voglio dire Milan, di più. Il Milan era, fino a qualche anno fa, la società che forse più di tutte... Sì, ma non facciamo più paragoni. Ma guarda che è imparagonabile. Sì, è imparagonabile, però... però fammi dire, di 10 secondi, cioè il Milan era fino a qualche anno fa, con qualche rara eccezione, forse in quel periodo anche Maldini era un'eccezione, era una società che la sua cultura aziendale, la sua cultura di spogliatoio, le sue bandiere, le valorizzava, le teneva vicine. Oggi è il contrario, oggi se le sta mangiando una ad una. Allora, per carità, poi ognuno, io non entro nel merito delle vicende, ognuno avrà i suoi torti e le sue ragioni, però è oggettivo, è un dato oggettivo che qualcosa non sia funzionando. Io dico soltanto questo, e dico, allora, i paragoni col passato, qui c'è Mario Ielpo che può documentarlo, è meglio non farli perché sennò siamo sullo 6-0, 6-0, 6-0. No, il punto è, io dico, tu, la società in questo momento, Elliot, che cosa ci dice? Guardate che lì non abbiamo fatto nessun contratto. Bene, se non avete fatto nessun contratto, per il modo come si presenta questo signore, non va bene. Allora lo chiamate e gli dite: guardi, come lei ha esagerato con le esternazioni, con le interviste, con le condizioni poste che sono campate per aria, guardi, facciamo finta che non ci siamo mai visti, arrivederci e grazie. Perché così si comporta una società che ha, tra virgolette, in mano il volante della situazione. Sì, però Mario, che sei stato chiamato in causa quanto al passato, è ingeneroso fare quei paralleli lì, perché ha ragione Ciccio, 6-0, 6-0, 6-0, senza strusciare palla. Però è anche vero che insomma il Milan negli ultimi anni ha prima chiamato a capezzale le sue bandiere e poi la tritate tutte una dopo l'altra. Sì, beh, ad essere onesti bisogna dire che insomma quando nell'era Berlusconi le bandiere venivano magari chiamate ma con ruoli marginali, cioè l'unico che è riuscito a entrare Verissimo. È stato Leonardo di Straforo, diciamo, cioè, entrando dalla porta secondaria e poi prendendo l'ascensore per i piani alti, ecco. Erano anche, c'era anche insomma la diceria che erano visti in maniera pericolosa perché come potevano essere concorrenti chi comandava in quel momento, ma insomma a parte questo la verità vera è che noi tutti dovremmo fare una statua a Rino Gattuso, il quale è stato l'ancora di salvataggio del Milan quando il Milan era nulla. Io ero a quel raduno di prestagione all'inizio della stagione a Milanello il giorno della presentazione di Gattuso, insomma, se non ci fosse stato lui non c'era Milan in quel momento lì, e quindi Gattuso è stato il primo a essere richiamato il vero milanista che ha tenuto la bandiera in alto del Milan veramente in maniera incredibile. Poi si è provato con Paolo evidentemente, però qui evidenti sono dei grandi problemi perché insomma non c'è mai stato, si sono sempre sentiti degli estranei, secondo me questo mi pare, insomma, no? Cioè, non c'è mai stato alla fine una fusione tra la proprietà e la dirigenza italiana. No, questo è chiaro, però ha ragione Franco quando dice almeno adesso sappiamo che ha deciso Gazzidi, se ne assumerà tutte le responsabilità, questo è sacrosanto. Però vi chiedo e riparto da te Mario, Ragnik, non bisogna aver paura del nuovo come dice Baresi, sono d'accordo, però siamo sicuri che sia profilo giusto? Cioè, per dire, in questi periodi così confusi a me è capitato più volte di pensare, leggendo cose di Milan, io farei qualunque cosa per prendere uno come Gasperini. So che è inarrivabile, so che sta bene all'Atalanta, so tutto questo, però mi sembra davvero il prototipo dell'allenatore per questo momento del Milan, no? Che sposa totalmente le indicazioni che arrivano da Elliott, eccetera, eccetera. Ragnik mi sembra abbastanza un salto nel vuoto e non si è presentato benissimo. No, ma io dico, Gasperini è per me il numero uno del mondo. Sì, si vince facile dove... facendo nome di Gasperini. Il globo terracchio, come dicono quelli bravi. Voglio dire, io veramente, a me piace, ma non perché vinca, a me piace il suo calcio, quindi... E mi piaceva anche quando c'era chi diceva non si può giocare a quella maniera, che non si capisce perché ci può giocare solo le squadre prima, finché non ha vinto proprio in maniera incredibile con gli ultimi risultati eccetera, tu dicevo ma no, in quella maniera ci può giocare solo l'Atalanta e ci può giocare solo Gasperini, ci dovrebbero spiegare perché ci può giocare solo una squadra che si chiama in un modo o soltanto un allenatore. No, quello è il vero calcio, il resto secondo me insomma è un po' come dire teoria di Coverciano applicata al calcio. Sono molto critico ho detto tanto bene di Gattuso prima, però il suo giro palla dietro a me non convince, però lui è talmente convinto del suo modo di giocare che riesce a far giocare abbastanza bene la squadra anche a parte questo. Tornando alla domanda, è un triplo salto nel vuoto, poi è chiaro, cioè, quando Sacchi venne imposto a Milan stavamo tutti ragionando di queste cose qui, però alle spalle di Sacchi c'era qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è adesso, Sì, no, ma questo è un altro, appunto, cioè, in quel senso sì, nel senso che poi il problema è questo, che poi dopo le difficoltà di tutto nuovo si sposano con anni di fallimenti e quindi non c'è sicuramente la pazienza di aspettare, non ci sono neanche tutti questi mezzi per lottare per grandissimi obiettivi, nel senso che continuano a mettere soldi ma stanno sempre a rincorrere, no? E quindi... insomma è sicuramente una scelta difficilissima e poi l'ultima problema che posso vedere è che ognuno è l'allenatore di un momento, cioè io adesso per fare un esempio Mourinho non lo prenderei mai, no Mourinho, ma non serve quel tipo di allenatore, no, ma non lì. A Milan sto dicendo in generale, perché Mourinho ha fatto il suo tempo, detto in termini senza offese, è stato grandissimo, istrionico, quello che volete, chapeau, però secondo me il momento di grazia l'ha passato. Quindi non vorrei che Ragnik potesse essere avesse già dato potrebbe aver già dato il meglio di se stesso, questo non lo so, perché non è che ha allenato gli ultimi 4 anni continuativamente, per no, dire no, no, ha chiaro, fatto dei chiaro, risultati, chiaro, quindi chiaro. È anche da questo punto di vista un punto interrogativo. Pierluigi, tu cosa ne pensi sul profilo di allenatore? Vabbè, so che a Ciccio piace tantissimo De Zerbi, non da oggi né da ieri né dall'altro ieri, ma da un sacco di tempo. Però io credo che proprio per tutti questi motivi un allenatore con maggiore così, diciamo, empatia con il calcio italiano forse sarebbe preferibile. Sì, anche se in realtà la ricetta non c'è, insomma, Gasperini sicuramente è l'allenatore del momento, è l'allenatore del momento, nel senso che è l'allenatore che in Italia negli ultimi 2-3 anni ha fatto vedere le cose migliori dal punto di vista dell'innovazione, ci metto anche Inzaghi, ma con un contesto di tipo diverso. Poi bisogna onestamente anche capire oggi chi va al Milan, perché questo è un aspetto, non vuole suonare scortese, però insomma è evidente. Gasperini, tanto per fare un nome, insomma, un esempio, lo scorso anno è stato sedotto dalla Roma, ma alla fine, giustamente dal punto di vista suo, è rimasto a Bergamo a giocare la Champions League. Cioè, è chiaro che il fascino di un club come il Milan rimane immacolato e immutato, però è anche vero che devi capire chi riesce a prendere. Per esempio, uno come Simone Inzaghi, non so se lo riesce a prendere, faccio per dirti, perché giustamente uno che sta giocando lo scudetto con la Lazio, perché oggi dovrebbe andare? Quindi c'è una differenza, diciamo, fra la storia, il nome glorioso e il presente, che invece è piuttosto incerto. E qui torniamo al discorso di prima, perché è ovvio che poi questa serie di, diciamo, di inefficienze di comunicazione non aiuta nemmeno sul profilo e l'immagine complessiva del club. Sì. Per me è una scelta che ha una sua logica, ha un suo senso. Quello che non va assolutamente è lo scollamento, è il dibattito pubblico, sono le esternazioni, le uscite dalla parte e dall'altra, devo dire, perché anche Boban, la sua famosa intervista, però è il sintomo di qualcosa che assolutamente, purtroppo per il Milan, non sta funzionando. Scusami, anche Boban, l'intemerata di Boban, l'uscita di Boban, nasce sempre per lo stesso problema. Certo, e cioè, come quello che dice oggi Maldini in maniera molto più elegante, in maniera molto più soft, dice: ma è quello, scusate, che diceva Boban, assolutamente. Dice: scusate, ma io sono il responsabile dell'area tecnica, non conosco questo signore e non gli ho mai parlato. La proprietà non mi ha mai detto nulla da questo punto di vista. Come mai questo signore continua a parlare del Milan del futuro? E questo è il nodo, perché voglio dire, ma ci sono modi anche, diciamo, cortesi quando si sta nello stesso team di lavoro, per dire: oh, guardate, fatemi fare sta prova, voglio vedere come va questo qua, ho pensato che sia meglio fare così. E, insomma, glielo si dice, lo si prepara, ma insomma non si può tenere Boban e Maldini diciamo nello spogliatoio di Milanello con questo che continua a dire interviste sì e no tutti i giorni parlando del Milan del futuro. No, questo è evidente. Adesso stiamo a vedere cosa succede nel prosieguo di questa stagione, sempre che questa stagione prosegua. Voglio chiedermi un'ultima opinione proprio su questo punto, ricominciando da Mario. Ieri ha parlato, anzi facciamolo sentire, ministro Spadafora, poi sentiamo una battuta a testa su questo momento. Il Comitato Tecnico Scientifico chiede delle modifiche vincolanti al protocollo della FIGC, per esempio di garantire che se durante gli allenamenti dovesse emergere un positivo, la squadra e tutto lo staff tecnico restino in quarantena senza nessun contatto esterno, oppure che siano i medici delle società ad assumersi tutte le responsabilità dell'attuazione del protocollo, o anche una cosa importante, che i numerosi test molecolari previsti per i calciatori non vengano fatti a discapito di tutti gli altri cittadini. Ecco, se la FIGC accetterà tutte queste indicazioni, gli allenamenti potranno riprendere sicuramente il prossimo 18 maggio. Manca solo un purtroppo da parte del ministro. Beh, noi ne parliamo tutti i giorni con Pierluigi Pardo. Mario, ieri abbiamo sentito anche Boris Johnson che ha detto: bene, la Premier League riprenderà a giugno. La Merkel lo aveva già detto, a questo punto forse sarebbe il caso di sentire il capo del condominio di Spadafora, cioè Conte. Ma sì, speriamo, perché qui insomma, non dobbiamo dimenticarci dell'importanza del calcio, perché sia come industria che come passione per tutti noi. Perché uno dei problemi del Milan è che anche, devo dire, una piccola parentesi, e qui sono 4 mesi che tutto viene dilatato da questa emergenza, e quindi magari loro hanno fatto dei piani, arriva, sono 3 mesi di 4 mesi, no? di dover aspettare di più, e quindi è un po' un problema. Ma tornando al discorso di campionato, a me mi sembrano tutti dei matti, nel senso che bisogna iniziare di corsa senza nessun problema. Ragazzi, la vita è fatta anche di un piccolo rischio, bisogna prendere quelli che sono gli accorgimenti possibili, non quelli che sono gli accorgimenti impossibili. Invece qui vogliono andare a spaccare una classica situazione italiana, dove vogliono andare a spaccare l'ultimo cavillo, l'ultima cosa fino in fondo, e questo è assolutamente ridicolo, secondo me. Se uno vuole rischio zero non si parte, ma siccome secondo me questo è un discorso assurdo, un po' di rischio nella vita bisogna prenderlo, si prendono le giuste precauzioni e basta, si va avanti come vanno avanti. Se i commessi del supermercato stanno lì tutti i giorni a lavorare, con delle file fuori, con gente che entra e esce di tutti i tipi, anche i calciatori si possono fare le loro partite. Non capisco perché non possono. Sempre fare. Che si voglia riprendere e non il contrario. Grazie Mario, grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. No, perché ne parliamo tutti i giorni, no, Pierluigi? Anche in questo caso, insomma, mi sembra che gli chiedi di far ripartire un settore professionistico e uno ti risponde: ma riapro i centri danza. Mi sembrano due vabbè, sempre, però, dai, la cosa dei centri danza era di domenica scorsa, di 9 giorni fa, ovviamente è stato un post secondo me non felicissimo, anche perché ha dato, io sai che sono laico, quindi ha dato comunque la sensazione che ci fosse dell'ostilità nei confronti del calcio, nel momento nel quale il ministro poi ci dice che non è vero, allora evidentemente quel post lì è stato sbagliato. Ma andiamo a cose più urgenti. Io credo che il nodo vero, e non è un nodo secondario per carità, è quello della quarantena, cioè è l'idea di che cosa succede se ci sono dei positivi nelle squadre, perché è chiaro che se poi tu metti in quarantena tutti per un effetto domino, ovviamente finisce la stagione, cioè al primo positivo finisce la stagione, perché se questo positivo emerge dopo una partita già le due squadre le devi tirar fuori, più gli altri. No, ma non ha senso, è una cosa che non ha senso. Quindi, oppure, se abbiamo sentito il ministro, bisogna che i medici sportivi si assumano la responsabilità, mi sembra insomma francamente un po' eccessivo. È chiaro che la soluzione ottimale qui non c'è, perché comunque insomma la situazione ottimale sarebbe quella di isolare tutti i calciatori, ma significherebbe isolarli per 2 mesi all'interno di un luogo unico o quasi, e con delle garanzie di un certo tipo. Insomma, il rischio zero non esiste, questo non c'è discussione. Il rischio zero non esiste, esiste secondo me il tentativo di cercare una sintesi. Ci sono ancora dei giorni, secondo me non tanto alla ripresa degli allenamenti di squadra del 18, ma soprattutto all'inizio della stagione, e lì avremo secondo me un quadro un po' più preciso, vedremo che curva ci sarà, perché se le cose vanno bene, se non c'è la recrudescenza, a quel punto noi ci troveremo in una situazione in cui veramente il virus è diventato marginale in larga parte dovuto, allora, ad alcuni focolai. Dice ok, ricominciamo tutti, andiamo in spiaggia, che questi giochi non però è ovvio che quello lì non è un dettaglio, cioè no, non lo che è, succede non al primo positivo è il tema. No, però come dici tu sempre, si tratta di devono disegnare degli scenari, perché questo è compito loro, è il loro mestiere. Se questi scenari diventeranno irrealizzabili, perché ce lo dice la storia, la cronaca, allora ne prenderemo atto. Vabbè, grazie ragazzi, saluto tutti quanti, mi fermo per la borsa chiedendo scusa per il ritardo, poi apriamo il bar tour perché c'è anche la notizia del giorno, che è quella di Vettel che dice di alla Ferrari. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Warum nur, warum muss alles vergehen? Oh, warum nur, warum bleibt gar nichts bestehen? Du gehst von mir, schaust dich nicht um. Gib mir die Antwort, warum nur, warum? Warum nur? No, più della notizia di Vettel, di cui ovviamente tra poco parleremo, io rimango basito per la scelta sonora del direttore artistico. Leo Turrini, non lascia sorpresa anche te questa ma storia. Io, sai, di fronte alle scelte del direttore artistico provo sempre un senso di ammirazione profondissima. Vorrei comunque, prima di parlare del divorzio di Ferrari, dargli una notizia incoraggiante, che c'è di nuovo una piccola coda sulla Pero Cormano. Quindi forse stiamo lentamente riavvicinandoci alla normalità. E nel rivolgermi direttamente al mio padre spirituale, Fra Marino Bartoletti, volevo chiedergli se ha notato anche lui che martedì scorso, primo giorno in cui era possibile raggiungere le congiunte, e lo dico al plurale, guarda caso, gente, non è andato in onda. Quindi Marino, se hai un commento da fare su questo, io ti ascolto. Il mio commento è varum, varum. Alles vergehen, oh, warum nur, warum? Dove l'hai pescata? Perché succedono queste cose? Perché? Grande scelta del direttore artistico, no, ricordate devi tutti, Udo Jürgens, no? Ricordiamo tutti, certamente, su globe terracqueo. D'altra parte io e Leo c'eravamo a Copenaghen nel 1964, quando vinse l'Eurofestival Gigliola Cinquetti. E questo ragazzo austriaco si piazzò fra i primissimi posti cantando questa canzone, che oggi torna perfettamente a Fagiolo. Ma io vorrei aggiungere una cosa, che quando io te eravamo lì a celebrare la vittoria di Gigliola Cinquetti, poi finimmo la serata con Brigitte Bardot e Jean Birkin, che erano venute lì a tifare per un francese, se non mi ricordo più se era Johnny Holiday o chi, e Marino mi disse: ma tu pensa che Johnny Holiday tutte le sere esce con Sylvie Vartan? E io gli risposi: figurati, gente, quando lo restituiranno alle congiunte, con quante Sylvie Vartan uscirà? E infatti non siamo andati in onda perché lui ci doveva ricongiungere. Allora, ragazzi, no, più che altro dovevo... Io sto pensando agli appassionati di Formula 1 che hanno ascoltato i primi minuti di questa trasmissione. Sì, ascolteranno anche gli ultimi. Secondo me è rimasto solo il mio amico di Faenza e sono scappati tutti. No, ce ne sono un botto, anche perché già da prima ricevevo messaggi che chiedevano a gran voce la vostra presenza, giuro, poi vi mando lo screen, per commentare la notizia del giorno, perché mi sembra evidente che alla Ferrari hanno aspettato il martedì per far piovere il meteorite sull'informazione, no? Dunque, allora, guarda, caro Carlo, io avevo chiesto alla Ferrari, fate uscire questa notizia il giorno in cui gente torna a lavorare, riapre il bar turno, perché erano settimane, anzi mesi, che parlavamo sempre il virus, il rinvio, il calendario da rifare. Adesso finalmente, grazie a Ferrari, abbiamo una notizia vera sulla quale esprimerci. Beh, sai, questo è l'epilogo del grande giallo della mozzarella, o se preferisci il colossale intrigo dello yogurt. E vi vado a spiegare subito molto rapidamente. Vettel aveva il contratto in scadenza e era stato detto prima di questa scena pandemia, sia da lui che da Binotto, il capo della Ferrari del Gran Premio, che dentro 5-6 Gran Premi del 2020 si sarebbe preso una decisione sul futuro. Sappiamo cos'è accaduto nel mondo, non si corre, però chiaramente quel problema, il problema della mozzarella in scadenza, restava sempre lì. Allora la Ferrari aveva detto a sé: guarda, vista la situazione, noi ti offriamo di congelare la situazione, perché non sappiamo nemmeno se 2020 corre, rimani anche 2021, cambieremo un po' il contratto, i temi economici e va bene, ma insomma poi abbiamo il tempo per ragionarci sopra. E lui ha detto: ma io ho vinto 4 mondiali, non sono una mozzarella, e quindi vi ringrazio, vi saluto, e adesso siamo tutti qui che aspettiamo l'annuncio del nuovo pilota Ferrari 2021, sull'identità del quale peraltro Marino potrà sicuramente delucidarvi con la sua consueta competenza dai tempi di Nuvolari e Vasi. Guarda, io che so un po' di tedesco, come Leo sa un po' di romagnolo, no? Patacca, Urdel, quelle cose lì, no? Però tre parole le so, fra le quali Auf Wiedersehen, che stamattina ho scritto, io a Vettel non gli dico Auf Wiedersehen, sinceramente, non lo rimpiangerò. Probabilmente lui non rimpiangerà la Ferrari, certamente la Ferrari non rimpiangerà lui, però secondo me ci rimette lui, perché un'altra macchina competitiva, correggimi se sbaglio, maestro in rosso, non la troverà più. E a 32 anni può darsi che, anche se le carriere dei piloti, dei grandi piloti, possono durare di più, credo un pochino che, come ci diceva la nostra amica Marilyn, lo porti un pochino sul viale del tramonto. Devo dirti che quando io e te uscimmo con Marilyn Monroe e Jane Mansfield, ti ricordi? Sì, ma c'erano sempre i Kennedy di mezzo, ti ricordi? Esatto, e purtroppo però lei trovava più simpatici John Bob Kennedy, e io dicevo con Marino, ma cosa ci avranno questi Kennedy? Però vorrei adesso rispondere alle osservazioni che giustamente ha fatto il mio padre spirituale. Io lo dico con malinconia, perché Vettel si va ad aggiungere a quell'elenco di grandi campioni del volante, penso al Boreto, penso a Mansell, penso a Prost, penso naturalmente anche ad Alonso, che hanno cercato di arricchire il loro curriculum vincendo il mondiale con la rossa, e non ce l'ha fatta nemmeno Seb, anche perché seppure si dovesse correre nel 2020 non credo ci siano le condizioni perché si possa togliere questo spizio. Quindi la malinconia c'è tutta. Io penso, vedendo le cose in retrospettiva, che Vettel abbia avuto la grande occasione 2 anni fa, nel 2018, quando la Ferrari per buona parte della stagione è stata anche più veloce della Mercedes. Lui purtroppo ha commesso degli errori, ricordiamo tutti Hockenheim, uscita di pista quando stava dominando la gara sul bagnato, gli è mancato anche un pizzico di fortuna. Non dimentico, per onestà di cronista, che quel mondiale fu stravolto in una logica Ferrari dalla tragedia di Sergio Marchionne. Rimane la sensazione di un'incompiuta. Marino però ha detto bene, la Ferrari ha in casa questo ragazzo sul quale ha deciso di scommettere dopo aver fatto un investimento quando ancora Carletto Leclerc era un ragazzino. Leclerc ha già un contratto fino al 2024. È chiaro che, diciamo così, la rotta è quella. Cioè la Ferrari... Mi sembra sacrosanto, Leo. Mi sembra sacrosanto, al di là delle simpatie che sono di Marino, ma anche le mie nei confronti di Leclerc. E il fatto che, anche qui condivido il sentimento di Marino, Vettel non è che non ci dormirò la notte nel sapere che non guidare la Ferrari. Posso essere icastico, sì, come direbbe Turrini. Sì. La Ferrari pensava con Vettel di aver preso il Viagra, okay? Sì. Invece ha preso solo un peperoncino, che sinceramente non aiuta più né me né Leo, ci vuole ben altro per la verità. Esco dalla metafora sapida. Quando la Ferrari prese Schumacher, prese un uomo che le poteva dare qualcosa di più, persino essere trainante nella sua crescita. Nel caso di Vettel questo non è accaduto. Non dico che è la Ferrari che ha trainato lui, però è arrivato un campione, non dico stanco, però effettivamente leggermente al di sotto di quelle che erano le speranze di crescita reciproca che la Ferrari ha avuto, fermo restando che effettivamente il mondiale lo hanno sfiorato, ed è inutile poi, visto che parliamo di automobilismo, mettere a fuoco i concorsi di colpa, perché anche dal muretto della Ferrari hanno sbagliato, perché strategie sono state sbagliate, però Vettel ha fatto degli errori che da un 4 volte campione del mondo sinceramente non ci si aspettava. Sì. Possiamo anche notare come... Leo, devo fermare per il traffico, poi puoi dire tutto quello che vuoi. Perché torna anche il traffico sulla Pero Cormano, tanto che io credo tra una settimana sarai lì con la tua amica con cui parli di solito. Traffico, torniamo subito. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. constatando che quando arrivò Schumacher c'era, mi sembra, una squadra diversa e più pronta alla Ferrari rispetto a quella che, con tutto rispetto per Binotto e per chi c'è adesso, rispetto a quella che c'è ora, lascio ovviamente Leo Turrini in replica sul peperoncino. No, beh, allora io intanto volevo rassicurare Marino, il problema non è il chiacchio del peperoncino, è che tutto è stato requisito da Genta non appena il governo ha consentito di rivedere le congiunte, e quindi io e te siamo rimasti miseramente all'asciutto. No, beh, allora ci sono alcune cose secondo me da spiegare bene. Vettel è un campione, io su questo non ho mai avuto dubbi. È vero che nel momento in cui ha avuto la Ferrari migliore, purtroppo non è stato all'altezza del suo prestigio e del suo carisma. Quando si fanno i paragoni con Schumi, al di là del comune passaporto, è questo che ha fatto la differenza. Che Michael, storicamente in un'epoca diversa, con una scuderia sicuramente meglio attrezzata, con gente più forte, però quando ha avuto la macchina... E non ha sbagliato, e Vettel invece sì. E non è una differenza da poco, eh? Cioè, No, assolutamente. Diciamo anche una cosa, però, perché se no rischiamo di non essere esaustivi nell'analisi. Vettel si è trovato di fronte un avversario, se preferite, una nemesi, che si chiama Lewis Hamilton, che di quelli che ho visto guidare io negli ultimi 30 anni, aspettando Leclerc, al quale attendiamo conferma, bla bla bla, beh, Hamilton è l'unico che io mi permetto di paragonare a Senna e Schumi, quindi non è che Vettel è stato battuto nella sua caccia al sogno da uno qualsiasi. Questo è il dubbio. L'avversario che ha avuto era di quella categoria lì. Adesso si apre, ragazzi, però la pagina del futuro. Come si costruisce la Ferrari adesso, Marino? Come prima guida Leclerc, una seconda guida alla Bottas, oppure torniamo alla storia del... prendiamo Ricciardo, che è uno forte, poi partiamo alla pari e poi vediamo, così magari ci cauteliamo un attimo. Allora, acclarato, e lo dico nel 35ennale dell'esordio di quelli della notte, che come direbbe Catalano ci vuole prima di tutto una buona macchina, perché è vero, come ha detto il professor Turrini, che ha dovuto scontrarsi con un pilota straordinario, che però en passant aveva anche una macchina straordinaria. Quest'anno per un pochino ci eravamo illusi, poi effettivamente abbiamo capito che era soltanto un'illusione. Quindi il presupposto è una crescita tecnica della macchina. Non riesco a focalizzare se questa sosta abbia fatto bene o abbia fatto male, se debbano riallenarsi le macchine come i calciatori, oppure comunque nel segreto dei garage qualcosa sia stato messo a punto. Allora, imprescindibile naturalmente il valore della macchina. Ho il sospetto che Mercedes sia ancora leggermente superiore, per cui saranno a Stoccarda che decideranno quando e se la Ferrari potrà superarli nella persona, lo abbiamo auspicato, di Leclerc. Io, guarda, credo di aver capito che c'è Sainz nel secondo sedile della Ferrari. Non ho elementi, come avrebbe Leo, per giudicare il suo valore. Probabilmente sarebbe stato più utile un usato sicuro, anche se Sainz credo che sia una persona disciplinata. Certo, dovendo scegliere un figlio di, ce n'erano altri in giro, ma probabilmente sarebbero stati incompatibili con Leclerc. E a proposito di figli, lasciami dire quello che è soltanto un sogno, una suggestione, quasi un piccolo delirio. Pensa che cosa sarebbe stata la Ferrari con la coppiata Leclerc-Schumacherino. Questa non è male, Turino. Beh sì, allora questo appartiene legittimamente. Grande romanticismo. Bravo. Adesso bisogna vedere il ragazzo Mick come riesce a crescere in Formula 2. Il favorito per la Ferrari 2021 accanto a Leclerc è certamente Sainz, lo spagnolo. Ed è quello giusto? Sainz è un pilota solido, però bisogna anche dire che sono diversi anni che in Formula 1 non ha mai avuto dei mezzi straordinari, è andato sul podio una volta sola, cioè non è il nome che scalda la gente, questo bisogna saperlo, lo sanno anche i Ferrari. La questione è che Ricciardo, per quello che si sa, Maranello ha già firmato per la McLaren, e quindi al di là di ogni dubbio sulla sua compatibilità con Leclerc, perché Ricciardo è uno fortissimo, non sembra una pista praticabile. Un'alternativa a Sainz potrebbe essere Bottas, che è pallido come chi ha bevuto candeggine, come suggeriva Donald Trump, però comunque uno che ha guidato la Mercedes, ha vinto concorse, conosce i segreti del grande avversario. E poi sa fare il numero, sa stare al suo posto. No, ma credo, ragazzi, una cosa, se, come ci auguriamo tutti, bla bla bla, a luglio il mondiale di Formula 1 dovesse cominciare, c'è una grande questione nell'immediato, perché una stagione che inizia con la Ferrari e il suo pilota, diciamo, più titolato in termini di risultati storici, separati in casa, non si è mai vista. Quindi io voglio anche capire che cosa succede se si torna a correre con Vettel, che è già un ex, e la Ferrari che punta tutto sulle Leclerc. Suggerisco di allacciare le cinture, perché penso che nemmeno la saggezza mia e di Marino Bartoletti, tra questi congiunti, disgiunti, che sono Seb e Binotto, potrebbe garantire un pacato e pacifico epilogo. Eccomi qua. Io spero solo che non ci sia un ministro mondiale dello sport che dice: io non sono il ministro della Formula 1, non vedo l'ora di arrabbiarmi di nuovo davanti al televisore, così come mi ha reso felice prima ascoltare dal traffico che ci sono le code in autostrada. Sì. Che bello, che belli gli che incontri. Meraviglia. Senti, volevo, prima di salutarti, volevo salutarvi, ovviamente plurale, non maiestatis, volevo farvi sentire una cosa, perché oggi è un compleanno, non solo quello del Foggia. Spagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, Ma ce lo meritiamo tutti. Quando pensi di aver vinto questo scudetto? Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus. Questo accadeva ieri, 35 anni fa. No, sono passati 35 anni. No, quello che mi fa impressione ogni volta che rileggo questa storia è i nomi delle formazioni avversarie, perché il Verona vinse lo scudetto nell'epoca veramente d'oro del calcio italiano, Marino. Guarda, oggi è un altro anniversario, che è il 25enne della scomparsa di Mia Martini. Io vorrei dedicare Almeno tu nell'universo a Osvaldo Bagnoli, perché è stato, non dico l'ultimo essere umano a sedere sulla panchina di una squadra campione d'Italia, però ce ne fossero come lui, devo dire, con la sua saggezza, con la sua umanità, con la sua compostezza. Voglio aggiungere una cosa, Vinci, bella, perché Marino non lo può fare perché parte in causa. L'anno in cui il Verona ha vinto lo scudetto, la Domenica Sportiva era condotto da un signore che si chiamava Marino Bartoletti, che era già vecchissimo all'epoca, ci tengo a dirlo, ma non si impaperava mai, perché aveva quasi 70 anni, ti ricordi, Marino? Sì, no? Sì, abbondante. Ed era esemplare nel condurre quel viaggio domenica per domenica che sfociò nello scudetto meraviglioso del Verona. Oggi Marino ha quasi 100 anni ed è ancora in questa condizione magnifica, senza avere nemmeno bisogno del Viagra. Io ti voglio bene, Marino, perché me lo ricordo quel Verona e mi ricordo la Domenica Sportiva. E tutti quanti ricordiamo questa chiusura qui. Grazie, ragazzi. Marino Bartoletti, Leo Turrini, Alessandro Marco Tulli, Edoardo Lavezzari, Filippo Aureggi. Ciao a tutti. La gente è matta. Forse è troppo soddisfatta. Segue il mondo ciecamente. Quando la moda cambia, lei pure cambia. Continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.